Lorenzo ripartito alle 11 precise era in deposito. Suicida. L'ha tirato. Cosa record. Non lo credo. E dove si dove? Quasi per arrivare via d'Italia, da casa. A capo. Già va bene. Ciao.